76. Risotto coi funghi. Per questo risotto io mi servo dei funghi porcini, i quali in alcuni paesi chiamansi morecci. Funghi in natura, perché vanno poi nettati e scattivati, metà peso del riso. Fate un battuto con poca cipolla, prezzemolo, sedano, carota e mettetelo al fuoco con 3 cucchiaiate d'olio, se il riso fosse grammi 300, da servirsi cioè a 3 persone. Quando il battuto avrà preso colore, fermatelo con suo di pomodoro e acqua, conditelo con sale e pepe e fatevi bollir dentro uno spicchio d'aglio intero che poi getterete via prima di passare il soffritto e il quale rimetterete al fuoco per cuocervi i funghi, prima tritati alla grossezza poco meno del gran turco. Cotti che siano, metteteli da parte. Il riso, fatelo così crudo, soffriggere con un pezzo di burro, poi tirate a cuocerlo con acqua calda versata a un ramaiuolo per volta. A mezza cottura mescolateci dentro i funghi e prima di servirlo dategli sapore col parmigiano. Sarà mangiato volentieri anche fatto con un pugno di funghi secchi invece di quelli freschi.